Perfetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Per il trasporto pubblico oggi giornata di scioperi, Milano nel caos dal punto di vista del traffico naturalmente, ma la protesta è quasi finita. Torino durerà tutto il giorno, previsti cortei contro la privatizzazione dell'azienda di trasporto locale. La legge di stabilità a rush finale alla Camera dei Deputati, polemiche sulla web tax, in arrivo un emendamento per il divieto di cumulo dei redditi da pensione e lavoro. Protezione al massimo livello per 4 magistrati impegnati in inchieste sulla mafia, riferisce il ministro dell'interno Alfano, che da Milano dice renderemo l'Expo un evento mafia free. Entro il prossimo anno il numero di rifugiati siriani potrebbe raggiungere i 4 milioni, stima l'ONU, nuovi raid e nuove vittime tra i bambini. Calcio, negli ottavi di Champions League il Milan incontrerà l'Atletico Madrid, match clou sarà Arsenal contro Bayern e questa sera il posticipo di Serie A, i rossoneri contro la Roma che ritrova Totti. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, notizie che se volete potete commentare su via SMS al 349-238-6666 oppure su Twitter con l'hashtag Effetto Giorno, ancora sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo dallo sciopero dei trasporti che sta investendo tutta Italia, è uno sciopero nazionale. I disagi più forti si stanno registrando in queste ore a Milano, perché poi in contemporanea c'è stato anche un corteo degli studenti che tra l'altro è andato verso il Palazzo della Regione. Saluto innanzitutto Stefano Malorgio, che è segretario generale della FILT CGIL di Milano, il sindacato di settore, uno dei sindacati di settore. Buongiorno Malorgio. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, com'è la situazione, livelli di adesione, che cosa ci dice? I livelli di adesione sono molto alti, le metropolitane sono ferme, c'è un buon livello di adesione anche sui mezzi di superficie, questa è una buona notizia per noi, ma purtroppo una brutta notizia per i cittadini milanesi. Questo lo sappiamo, ma perché scioperate? Per un contratto che è scaduto ormai dal 2007 e quindi siamo ormai quasi al settimo anno di scadenza di questo contratto senza rinnovo e per una crisi di settore che pare essere senza prospettive. Insomma, questo è stato un settore, adesso se si esclude Milano, in profonda crisi, come si è visto a Genova, come si vede a Roma, a Torino, è un settore che sta ancora cercando di capire come poter sopravvivere in un quadro di risorse che sono fortemente diminuite, che sono assolutamente insufficienti e che allo stesso tempo invece vive una richiesta da parte dei cittadini di servizio che è sempre più alta. Le due cose non stanno assieme e ci vorrebbe insomma un atto di attenzione. Malorgio, è diventato, mi consenta se la metto così brutalmente, è quasi un rituale lo sciopero del trasporto pubblico locale, nel senso che continuate a scioperare però non si ottiene niente. Non è che il mezzo dello sciopero inizia a diventare un po' desueto e un po' anche inutile, se vogliamo? Cioè fa imbestialire solo i cittadini, non sensibilizza alla vostra causa e poi i risultati non si vedono? Ma questa è una riflessione che sicuramente si può fare. Ricordo però che gli scioperi sul contratto nazionale non sono così numerosi come si immagina. Molti di questi scioperi nel settore invece sono scioperi di piccole sigle sindacali, anche autonome. Il problema è che nella legge attuale uno sciopero nazionale per il rinnovo sacrosanto di un contratto con uno sciopero dentro un'azienda da parte di un piccolo sindacato hanno lo stesso peso, lo stesso valore. Ecco, forse questo è un elemento da mettere sotto la lente di osservazione. Ultima domanda che le faccio, perché ce lo chiedono gli ascoltatori via SMS, anche su Twitter, ma come mai sempre a ridosso del fine settimana, o il venerdì o il lunedì? Non c'entra molto, diciamo, dipende dalle date in cui c'è stata la proclamazione, in particolare questo è stato in seguito all'incontro che c'è stato nel Ministero, con il Ministero del Lavoro, che ha portato a una mancata conclusione positiva, per cui non c'è un caso, diciamo. Quindi nulla a che fare con l'appoggio sul fine settimana, diciamo. E non è il prolungamento delle ferie, perché ricordo anche agli ascoltatori che i lavoratori perdono soldi durante lo sciopero, quindi non è che il prolungamento di queste cose aiuti alla riuscita dei scioperi, anche in questa condizione di crisi. Grazie Malorgio, buona giornata. Filomena Greco da Torino, ci aggiorni sulla situazione là e soprattutto che cosa succede nel corso di questa giornata? Buongiorno, eccoti. Sì, buongiorno. Buongiorno Simone. Effettivamente a Torino lo sciopero nazionale di 4 ore del settore dei trasporti si incrocia in realtà con la protesta sindacale indetta questa per 24 ore degli addetti del trasporto pubblico locale contro la vendita di una quota di minoranza di GTT. GTT è l'azienda che gestisce i parcheggi e il trasporto nel capoluogo piemontese. Si tratta del quinto sciopero di questo comparto organizzato dall'estate scorsa e la protesta di oggi di fatto coincide con la discussione che è in corso proprio in questi minuti a Palazzo di Città sulla delibera che prevede la cessione del 49% dell'azienda, quindi comunque una quota di minoranza, l'azienda che va a caccia di un partner industriale che possa dunque rilanciarla. Davanti alla sede del comune si è già radunato un presidio di circa 200 lavoratori contrari a questa cessione. Prima hanno sfilato in corteo, ora si sono fermati davanti al municipio. I cortei, lo ricordiamo, in mattinata sono stati 8 e quindi si sono segnalati diversi disagi nel traffico causati in parte dalla mancanza di mezzi di trasporto proprio per il blocco, con un'adesione segnalata all'85% finora, in parte dagli 8 cortei appunto organizzati che hanno un po' reso difficoltosa la circolazione in città. Il sindaco Fassino, questo voglio ricordare, ci aveva già provato a vendere una quota della società. Alla proposta arrivata l'anno scorso da Trenitalia era stata considerata inadeguata dal punto di vista economico e dopo mesi di discussione adesso si arriva di nuovo alla seconda gara con i sindacati che temono a questo punto un aumento delle tariffe, ricadute occupazionali, ma soprattutto un impoverimento del servizio di trasporto. Insomma, dopo una settimana di passione per Torino, lo ricordiamo, cominciata lunedì scorso con le proteste, con i blocchi del movimento dei forconi e del comitato 9 dicembre, oggi in sostanza si è ricominciato. Grazie Filomena, buona giornata, so che ci aggiornerai nel corso appunto di questa giornata. Citavi già tu le manifestazioni del comitato 9 dicembre, ebbene sentiamo come vanno le cose da questo lato, perché mentre la cosiddetta marcia su Roma spacca la protesta, è stato condannato a 3 mesi il vicepresidente di Causa Pound. 3 mesi di reclusione e 100 euro di multa è la condanna che il giudice del Tribunale di Roma ha inflitto a Simone Di Stefano, vicepresidente di Causa Pound, accusato di furto pluriaggravato per aver tentato di sostituire 2 giorni fa la bandiera europea con il tricolore nella sede della Commissione europea a Roma durante una delle proteste dei cosiddetti forconi. Decine di militanti di Causa Pound stanno manifestando a Piazzale Clodio davanti ai cancelli del Tribunale proprio per chiedere la sua scarcerazione. Intanto si spacca il movimento sul timore di violenze alla manifestazione di mercoledì a Roma. Non andranno i siciliani di ferro e i veneti di Chiavegato, il quale dice che le manifestazioni di Roma potrebbero avere delle frange violente che non fanno parte del nostro movimento. Informazione che abbiamo già fornito, aggiunto, alle forze dell'ordine. In piazza invece ci saranno i seguaci di Calvani. Gli altri restano aperti alla trattativa col governo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 ore. E ora parliamo di legge di stabilità, perché poi naturalmente in queste proteste c'è anche una grossa componente economica. Legge di stabilità che è a rush finale, doveva iniziare a mezzogiorno e mezzo la riunione della Commissione Bilancio della Camera, è stata spostata un po' più avanti. Alessandra Schepisi, quali sono le ultime? Sì, buongiorno. Così prosegue senza sosta il lavoro di limatura della legge con una serie di riunioni tra governo e maggioranza. Si cerca l'intesa sugli ultimi punti, tant'è che, come hai detto anche tu, la seduta della Commissione Bilancio prevista per le 12.30 è slittata alle 15.30. L'obiettivo è quello di licenziare il testo entro stasera per farlo approdare nell'aula della Camera domani, poi ultimo passaggio in Senato per il varo definitivo entro Natale. Tante le novità dell'ultima ora, dagli esodati alle pensioni, dal bonus bebè ai fondi per la sicurezza, proposta la costituzione di un fondo per la riduzione del cuneo fiscale in cui confluiranno già dal 2014 risorse derivanti dalla spending review e dalla lotta all'evasione, confermato lo stanziamento di 950 milioni di euro per tutelare 17.000 esodati fino al 2020, il rinvio dal 16 al 24 gennaio del pagamento della minimo, 100 milioni per il comparto sicurezza, 30 per il bonus bebè e ancora l'attesa norma sugli stadi, via libera la costruzione di nuovi impianti ma senza nuovi complessi edilizi. Malumore invece per la sanatoria dei contenziosi sui canoni demaniali, ma 2 restano i nodi principali: la web tax che impone ai giganti mondiali del web, lo ricordiamo, di aprire una partita IVA in Italia, e la nuova versione della Tobin tax, mentre come dicevamo sono in arrivo, dovrebbero arrivare altre proposte di modifica, tra cui il divieto di cumulo tra pensioni d'oro e incarichi pubblici. Per ora è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, e poi torneremo a parlare di tutto questo tra poco. Nella seconda parte della trasmissione incontreremo Filippo Taddei, che è responsabile economico, neoresponsabile economico del Partito Democratico. A proposito di Partito Democratico, è qua che si concentra l'attenzione politica. Nel suo battesimo da segretario del PD, Matteo Renzi sfida Beppe Grillo, ma incalza anche gli alleati di governo, alla maggioranza e al Premier Letta. Dall'Assemblea di Milano ieri il sindaco di Firenze ha proposto un patto dettando l'agenda degli obiettivi da realizzare nei prossimi 15 mesi, in cima alla lista la nuova legge elettorale. Facciamo insieme le riforme e in cambio siamo pronti a rinunciare ai soldi del finanziamento pubblico ai partiti, è invece il messaggio rivolto al leader del Movimento 5 Stelle. Se su questo ci stai, si fa. Se su questo non ci stai, sei per l'ennesima volta un chiacchierone. Se non ci stai, l'espressione buffone vale per te. Immediata la replica di Grillo, che respinge al mittente l'invito di Renzi. La sua sorpresina è stata una scoreggina, ironizza il leader del Movimento 5 Stelle. I soldi dei rimborsi li deve restituire agli italiani, aggiungono i suoi parlamentari. Le parole di Renzi agitano anche la maggioranza. Il suo è stato un discorso di sinistra. Il nostro interlocutore resta Letta, sottolinea in particolare il leader del nuovo centrodestra, Alfano, preoccupato che dietro l'accelerazione sulla legge elettorale ci sia la volontà di andare al voto anticipato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dalla politica italiana alla politica estera, e andiamo adesso in Cile, dove si è votato e ritorna al governo la Bachelet con un tasso di astensionismo record. E forse questo, Roberto Darin, collega del Sole 24 Ore, in studio con noi, il dato più significativo. È un dato significativo ed è un'indicazione di quanto i cileni non si siano ancora adeguati a un nuovo sistema che non prevede più l'obbligatorietà del voto, come invece prima accadeva. Interessante e scontata la vittoria di Bachelet, che ha vinto con il 62% circa, però ora inizierà una fase molto difficile di riforme importanti cui non si potrà sottrarre. Che tipo di riforme? In che condizioni è il Cile, Roberto? Il Cile è un paese affidabile, è un paese che in America Latina è cresciuto molto negli ultimi anni, però è anche un paese molto diseguale, che ha una struttura costituzionale ancora riscritta da Pinochet, quindi è un paese in cui l'inequità continua a vigere in modo marcato. La scuola è molto cara, le pensioni sono bassissime e la sanità è accettabile solo per chi se lo può permettere. Quindi grandi sfide per Michelle Bachelet, grazie a Roberto Darin del Sole 24 Ore. Noi restiamo all'estero, perché secondo l'alto commissario ONU per i rifugiati, Antonio Guterres, il numero di rifugiati siriani alla fine del 2014 potrebbe aver raggiunto i 4 milioni, attualmente sono 2,3 milioni. Quindi è il caso di riportare i riflettori sulla Siria, dove tra l'altro 24 bambini di età compresa tra un anno e mezzo e 15 anni sono stati uccisi nei raid aerei compiuti nelle ultime 24 ore dalle forze lealiste su alcuni quartieri di Aleppo. L'analisi dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. I bambini siriani, almeno quelli che sopravvivono ai bombardamenti del regime e alle violenze inaudite dell'opposizione islamica, invidiano la stalla dove è nato Gesù, dice l'arcivescovo maronita Samir Nassar. In Siria si nasce sotto le bombe e si muore sotto le bombe, e questa morte non fa distinzione tra cristiani e musulmani, tra sciiti, sunniti e alawiti. A soffrire drammaticamente sono tutti siriani in una guerra che nessuno sa o vuole fermare. Gli interventi arabi occidentali a favore dell'opposizione armata si sono rivelati un fallimento clamoroso. L'esercito libero siriano è allo sbando ed è stato travolto più che dalle truppe del regime di Bashar Assad, dall'avanzata dei jihadisti, in buona parte combattenti stranieri che se la prendono con tutti, cristiani e musulmani. Il 22 gennaio ci dovrebbe essere a Ginevra una conferenza sulla Siria, ma non si sa chi andrà e soprattutto a nome di chi. In questi quasi 3 anni la protesta contro Assad si è trasformata in una guerra civile e ora in un conflitto per procura inarrestabile. Esiste ormai soltanto una ex Siria, e di questo passo tutto il Levante arabo andrà in fiamme. Parliamo di mafia adesso e di mafia e di Expo, perché oggi il ministro dell'Interno Angelino Alfano è stato a Milano in audizione presso la commissione antimafia che era in trasferta. Sta seguendo tutto questo Stefano Totoro, che ci aggiorna. Buongiorno Stefano. Buongiorno, riunione della commissione antimafia, come dicevi, qui in prefettura a Milano, riunione che si svolge eccezionalmente nel capoluogo lombardo in vista dell'Expo 2015, un summit, quello che di oggi e di domani, che si concentrerà sul tema delle infiltrazioni mafiose nell'economia del nord Italia. Ad aprire i lavori è stato il vice premier e ministro dell'interno Angelino Alfano. Quella del ministro è stata una analisi di scenario delle attività delle criminalità organizzate e di interventi ovviamente di repressione da parte dello Stato. Alfano ha ricordato gli ultimi interventi dell'esecutivo riguardanti il contrasto alle mafie, in particolare il recente decreto antimafia, il decreto sulla terra dei fuochi. In un passaggio il ministro dell'interno ha sottolineato come, nonostante l'affinamento progressivo delle loro attività abbia consentito alle mafie di proiettare con successo nello spazio immateriale degli scambi finanziari, sono appunto le parole di Alfano, scambi finanziari delle relazioni di affari, il tratto che le contraddistingue tuttora dalle altre organizzazioni criminali resta legato comunque al territorio in cui operano gli esponenti delle cosche mafiose, dal territorio derivano potere e prestigio. Una riunione, quella dell'antimafia di oggi, riunione naturalmente ricordiamo la commissione presieduta da Rosy Bindi, riunione in cui non sono mancate anche le polemiche politiche, infatti la Lega Nord è assente in polemica con il mancato invito al summit del governatore lombardo Roberto Maroni. È assurdo, dicono dalle fila del Carroccio, che siano stati invitati i rappresentanti delle istituzioni locali ma non il governatore. Uno sgarbo istituzionale lo ha definito la Lega. Dalla commissione ti fanno sapere che Maroni sarà ascoltato a gennaio. Per il momento è tutto, a voi. Grazie Stefano Totoro. Viabilità, a tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Giornata di scioperi oggi per il trasporto pubblico locale, il traffico di Milano nel caos, protesta quasi finita però nel capoluogo lombardo, a Torino durerà tutto il giorno, previsti cortei contro la privatizzazione dell'azienda locale. La legge di stabilità rush finale alla Camera dei Deputati, polemiche sulla web tax, in arrivo un emendamento per il divieto di cumulo dei redditi da pensione e lavoro. Entro il prossimo anno il numero di rifugiati siriani potrebbe raggiungere i 4 milioni, stima l'ONU, nuovi raid e nuove vittime tra i bambini. Calcio, negli ottavi di Champions League il Milan incontrerà l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda invece l'Europa League, notizia appena battuta dalle agenzie, il Napoli affronterà lo Swansea nei sedicesimi di finale di Europa League. E noi adesso torniamo a parlare di economia e di legge di stabilità. Saluto Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico, neoresponsabile economico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Io la prima domanda che le voglio fare è sulla web tax. Allora, chiariamo bene che cos'è. È un'ipotesi che è entrata nella legge di stabilità tramite un emendamento con la quale si obbliga ad acquistare servizi online, si tratti di e-commerce o di pubblicità, da aziende con partita IVA italiana. Questo, nelle ipotesi di chi ha scritto questo emendamento, dovrebbe portare a far sì che i vari Google e tutti gli altri, insomma, che offrono questo tipo di servizi si debbano dotare di partita IVA italiana e dunque pagare le tasse in Italia. Lei come lo valuta questo emendamento? Su questo c'è stata grande chiarezza ieri nel discorso di Matteo Renzi, il principio che la tassazione debba seguire la collocazione geografica dell'attività economica e che questo sia un problema che vada affrontato e risolto è un principio che condividiamo tutti e il punto è se questa norma è funzionare a fare questo. C'è un problema di ordine tecnico che ha a che fare con il principio di libera circolazione dei servizi. Questa norma è difficile che riesca a passare quel vaglio e che quindi sarà inefficace. La politica è affermare principi. È una norma da cancellare, quindi, secondo lei, Taddei? Dunque no, la politica è affermare i principi e trovare strumenti che siano conseguenti e applicabili. Questa purtroppo non sembra soddisfare entrambi i requisiti. E quindi secondo lei è una norma da cancellare, in sostanza? Sì, è una norma che comunque è probabile che non abbia efficacia, quindi anche se non la cancelliamo ci pensa l'Europa. È soddisfatto a questa legge di stabilità, Taddei? Ma guardi, la legge di stabilità, io sono, come sa, siamo stati eletti ieri, noi abbiamo, il governo ha fatto ha seguito il suo processo, non siamo intervenuti su questo. Il mio mandato è per il 2014, la nuova segreteria ha quel mandato e quindi ci concentriamo sul futuro. Questa legge di stabilità fa quello che poteva fare data la maggioranza e data il contesto. E per il 2014 che cosa immaginate? Leggevo che Matteo Renzi ieri ha lanciato l'idea di un Job Act, che cosa vuol dire? Una sorta di unificazione, no? Delle norme sul lavoro per rendere tutto più semplice. Ma in realtà è più di questo. La decisione è un punto di vista metodologico e politico nuovo. Quando parliamo di mercato del lavoro abbiamo sempre questo approccio molto limitato, ci concentriamo sull'articolo 18, sul singolo contratto. Invece bisogna cercare di avere un quadro di riforma complessivo, da cui la nozione di Job Act. Allora indichiamo tre priorità per il mercato del lavoro, così ci capiamo su quali sono i tre punti su cui ci concentreremo. Prima di tutto, noi riusciamo o facciamo molto più fatica degli altri paesi a trasformare i nostri lavoratori con contratti temporanei e i lavoratori che hanno contratti a tempo indeterminato. Non lo facciamo perché non c'è uno strumento che favorisce questa stabilizzazione. Numero due, abbiamo una marea di lavoratori che perdono il lavoro e non ricevono alcun sostegno, cioè sono al di fuori dell'assegno di disoccupazione o del sostegno di disoccupazione in generale, e questa è veramente una peculiarità italiana. Numero tre, in un momento di crisi come questa non c'è solamente la gente che perde il lavoro, ma ci sono lavori e mansioni che diventano ridondanti, che diventano inutili, e altri invece che si aprono. Ecco, noi dobbiamo offrire strumenti che favoriscano la riallocazione della forza lavoro, cioè di lavoratori da mansioni e lavori che non servono più a mansioni e lavori che invece servono. Queste sono le tre cose, questi sono i tre punti di attacco. Se adesso cominciamo a parlare della singolo contratto, non ne usciamo più vivi e soprattutto falliamo come hanno fallito tutti i tentativi precedenti, da cui l'idea di andare con noi. Mi scusi Taddei, quello di cui sta parlando lei sostanzialmente è un ridisegno complessivo di tutto il sistema, compreso il sistema degli ammortizzatori sociali. Assolutamente, noi vorremmo un partito democratico che con la stessa enfasi con cui parla del rifinanziamento della cassa integrazione riconosca anche che la cassa integrazione in questo paese copre più o meno, insomma, un lavoratore su tre. E allora noi vorremmo occuparci del lavoratore su tre che è coperto da cassa integrazione e degli altri due su tre che invece non sono coperti da nulla e nessuno, perché sono tutti lavoratori disoccupati. E quindi ridisegnare completamente gli ammortizzatori sociali. Assolutamente, ma le ripeto, qualunque noi crediamo che molti degli errori delle riforme del passato siano proprio in questo approccio un po' segmentato, come se il mercato del lavoro si potesse isolare alcuni i contratti dalla struttura complessiva dello Stato sociale rispetto a da come il lavoro viene gestito, quando questo esiste. Questo è un metodo che non funziona e non può funzionare. Se guardi, le posso dare un'indicazione, il centro-sinistra di questo paese in passato aveva avuto un approccio più universalistico in senso pieno, e quell'approccio sta, se lei si ricorda, nella commissione Onofri. Ecco, un po' di quell'approccio noi vorremmo quell'approccio noi vorremmo riprenderlo. Il problema è che se noi parliamo di mercato del lavoro dobbiamo avere un approccio complessivo in cui si offre a questo paese una riforma che riguardi quei tre aspetti che le citavo prima. Grazie a Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico. Torneremo a romperle le scatole nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, soprattutto quando entrerà in pienezza di mandato. Buona giornata e buon lavoro. Speriamo di avere buone risposte quando tornerete. Saluto Gianluigi Zanola, sindaco di Serle. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata perché Serle è al centro di una storia di cronaca dei giorni scorsi. Che cosa è successo? È successo che un ragazzo di 26 anni di origini albanesi, che aveva effettuato a quanto pare un furto in una casa, è stato ucciso con un colpo di fucile da caccia dal proprietario della casa, un uomo di 29 anni, Mirko Franzoni, fermato dai carabinieri. Da quel che sta emergendo dalle indagini di queste ore, a quanto pare il tutto non è avvenuto per quella che potremmo definire legittima difesa o per paura per esserselo trovato in casa, ma è stato un vero e proprio inseguimento. Questo ragazzo sarebbe stato ucciso due ore dopo questo presunto ladro, perché poi insomma non abbiamo nemmeno la certezza che sia lui. Allora, sindaco, abbiamo letto che in realtà, al di là che una cosa di questo genere non deve avvenire naturalmente, perché non si procede per vendetta, abbiamo letto che insomma c'è molta preoccupazione in paese, un allarme criminalità abbastanza forte. Beh, chiaramente il paese da quanto è avvenuto nella serata di sabato è molto scosso, anche perché il nostro è un paese collinare di 3.000 anime, sostanzialmente piuttosto tranquillo, quindi è un fatto che chiaramente, come potete immaginare, ha sconvolto tutti, perché ci troviamo al cospetto da un lato di un ragazzo di 26 anni morto e dall'altro di un altro ragazzo conosciuto da tutti che si trova adesso in questa spiacevolissima condizione. Noi come paese in questo momento stiamo cercando di comunque essere vicini alla famiglia ragazzo, perché li conosciamo bene, sappiamo, e non sono frasi di circostanza, essere veramente una buona famiglia, un ragazzo tra l'altro che non è quello che uno potrebbe pensare una classica testa calda esaltata, ma davvero un ragazzo estremamente mite, riservato, e pare incredibile a tutti noi che una cosa del genere sia potuta succedere. Si sente di giustificare quel gesto, sindaco? No, chiaramente no. Al di là adesso di quella che sarà la ricostruzione che le autorità competenti faranno sulla volontarietà o meno del colpo partito, chiaramente comunque nessuno vuol giustificare un colpo, un fatto del genere, perché non è sicuramente trasformando il paese in un far west che si risolve il problema dei furti. È un paese esasperato il vostro dalla criminalità, sindaco? Purtroppo le dico, fino a un paio di anni fa eravamo veramente un'isola felice in cui non succedeva quasi nulla. Negli ultimi due anni è successo molto spesso che a distanza di qualche mese ci troviamo di fronte a una settimana o due in cui molte case vengono visitate dei ladri, e anche le ultime due settimane c'erano stati parecchi episodi sia in appartamenti sia ad esempio nel magazzino della nostra protezione civile, il gruppo a cui erano state portate via parecchie attrezzature. Questo ovviamente genera comunque una mancanza di sicurezza nei cittadini. Quello che poi sorprende è che c'è stato quasi una sorta di salto di qualità, tra virgolette, dei banditi, nel senso che molti colpi avvengono anche in orari pomeridiani, anche con la gente in casa, a volte scoperto. Quindi quello che fa un po' rabbia è che sia un po' la sensazione. Quindi può darsi che sia stato frutto dell'esasperazione quello che è successo? Sicuramente c'è tensione, c'è gente che mi viene a riferire: da quando mi sono entrati non riesco più a dormire, da quando ho avuto i ladri in casa mio figlio, come viene buio, si mette alla finestra a guardare fuori. Quindi non è tanto il furto in sé, la perdita dell'orologio, della catenina, dei 200 euro che crea il problema, ma quella mancanza di sicurezza in casa propria, dove uno invece vorrebbe avere il suo nido di tranquillità per sé e per la sua famiglia. Grazie Gianluigi Zanola, sindaco di Serle. Brevemente, abbiamo veramente un minuto, però come sempre non vogliamo lasciare soli i sindaci sardi, tra l'altro tra due giorni e un mese dall'alluvione che li ha colpiti. Gerardo Casciu, sindaco di Uras, provincia di Oristano, buongiorno. Buongiorno a voi. Come vanno le cose? Beh, diciamo che la prima emergenza l'abbiamo già affrontata e superata, adesso c'è la seconda emergenza che è ancora più difficile da affrontare. E qual è? E adesso è dare risposta ai cittadini. Quanti danni avete, sindaco? Ma non l'abbiamo ancora valutato del tutto, perché c'è un lavoro lungo e laborioso, però a lume così diciamo che siamo intorno ai 5 milioni, 6 milioni di danni. I danni maggiori sono soprattutto nell'agro, in quanto non abbiamo più una viabilità rurale e quindi lì ci sarà tutto da rifare, canali, strade e via discorrendo. E i soldi ce li avete per farlo? Quale? Mi scusi? I soldi ce li avete per farlo, i soldi? Guarda, le chiederei una domanda di riserva. Non posso fargliela. Non posso fargliela. Come dire, le auguro di trovarli. Sindaco, oggi abbiamo veramente poco tempo. La ringrazio per essere stato con noi. Una pausa, a tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Giornata di scioperi oggi per il trasporto pubblico locale. Milano nel caos, a Torino si protesta per tutto il giorno, previsti cortei contro la privatizzazione. Legge di stabilità, rush finale alla Camera dei Deputati, polemiche sulla web tax, dovrebbe arrivare un emendamento per il divieto di cumulo dei redditi da pensione e lavoro. Protezione al massimo livello per 4 magistrati impegnati in inchieste sulla mafia, riferisce il ministro dell'interno Alfano, che da Milano aggiunge renderemo l'Expo un evento mafia free. E noi veniamo in apertura di questa seconda, di terza parte in realtà, a parlare di calcio e in studio con il nostro Dario Ricci, perché ci sono stati i sorteggi per le coppe europee. Che cosa ci raccontano? Beh, il Milan, che stasera poi sarà impegnato nel Monday Night a San Siro contro la Roma, ha pescato l'Atletico Madrid, quindi negli ottavi di Champions League sarà sfida tra Milan e la squadra dell'ex interista Simeone, del bomber Diego Costa, che attualmente appaia il Barcellona in testa alla Liga, quindi compito non facile, ma peggio è andata all'Arsenal, che ha pescato il Bayern Monaco. Poi altre sfide suggestive, Simone, quella tra Galatasaray e Chelsea. Dario, ed è quella la partita, il match clou, diciamo, sì, no? Sì, Bayern-Arsenal. Sì, Arsenal-Bayern Monaco, Manchester City-Barcellona e Galatasaray-Chelsea, quelle più interessanti. Per quanto riguarda l'Europa League, eccoli i sorteggi: Napoli-Swansea, lo Swansea di Michael Laudrup, Juventus-Trabzonspor, i bianconeri tornano in Turchia. Lazio-Lugodorez, i bulgari del Lugodorez, e Eisberg, i danesi dell'Eisberg per la Fiorentina. Invidio questa tua capacità di leggere questi nomi. Mi sono esercitato prima di entrare in onda. Prima di entrare in onda. Abbiamo ancora 30-40 secondi. Dario, invece su stasera, che cosa ci dici? Milan-Roma. Beh, insomma, partitissima. Ritorna Francesco Totti, e già questo vale il prezzo del biglietto. Giornata davvero particolare per il Milan, no? Perché questo sorteggio ne testimonia ancora una volta la dimensione europea, la nostra unica rappresentante in Champions, ma certo è una sfida sicuramente impegnativa. E poi stasera servono comunque a entrambi i 3 punti, la Roma per continuare a rimanere nella scia della Juventus, e il 5 gennaio c'è lo scontro diretto, e il Milan per ritornare nei quartieri alti della classifica. Vedremo che cosa succederà. Dunque, intanto ci sentiamo l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi, inchiesta dedicata in questo caso alla mappa della vittoria alle primarie di Matteo Renzi. Il successo straordinario ottenuto da Matteo Renzi, quasi il 70% delle preferenze su 3 candidati, è da ore sotto la lente attenta di osservatori, analisti, politologi, sondaggisti. Ma qual è la mappa del suo potere politico? Come si è evoluta nel giro di pochi mesi dalle primarie del 2012 a quelle del 2013? In quale luoghi oggi è concentrata? Andiamo con ordine. Il 25 novembre del 2012, al secondo turno delle primarie di coalizione, 5 candidati partecipano 2.802.382 persone. Vince, come sapete, Pierluigi Bersani con il 60.9% dei votanti. Matteo Renzi prende il 39.1, cioè 1.095.925 persone. Però un anno fa Renzi, pur perdendo la competizione, si arrocca già in alcune regioni storicamente rosse, come Toscana e Umbria, uno spicchio della provincia di Cuneo. I primi segnali di spostamento delle preferenze verso Renzi già si intravedono in Emilia-Romagna, il cuore del potere del PD, in gran parte delle sue province, in primis Modena e Ferrara, dove un pezzo consistente dell'apparato storico del partito di tradizione d'Alemiana e l'elettorato di riferimento si sposta subito verso Renzi. Da lì, da quel vecchio cuore rosso, parte la sua rimonta. Tra luglio e settembre Renzi partecipa a numerose feste democratiche in tutta Italia, ma in Emilia trova il plebiscito. A Reggio Emilia, infatti, il 30 agosto si contano 5.000 persone. A Bologna il 2 settembre arrivano 5.000 persone. A Modena l'8 settembre lo attendono in 8.000. La rimonta si profila in tutta la sua essenza domenica 8 dicembre. Renzi sbanca in Umbria, Emilia-Romagna, Marche, si attesta sopra il 70% delle preferenze. A nord le percentuali sono più vicine al dato nazionale e parlano comunque sempre di una vittoria schiacciante, una sorta di rullo compressore. Friuli 68%, Liguria 61%, Lombardia 66%, Piemonte 68%, così come il Trentino. Numeri che crescono ancora di più in Veneto con il 70%, in Val d'Aosta con il 70%. 75%. Oggi sappiamo che il suo elettorato è in prevalenza un'età alta, cioè tra i 45 e i 65 e oltre. I giovani sono pochi, sono diplomati e laureati, in buona parte sono cattolici, soprattutto condividono la sua visione del mondo e del partito. Da lì, da quell'elettorato, Renzi partirà per conquistare Palazzo Chigi. Così l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi, dedicata appunto a Matteo Renzi. Noi adesso, io vi voglio dare qualche dato che è stato diffuso poco fa dall'Istat e che riguarda la povertà. Secondo le rilevazioni di oggi, il 29,9% delle persone residenti in Italia, vuol dire insomma circa un terzo della popolazione, è a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2012. Quasi la metà, il 48%, dei residenti nel mezzogiorno è nella stessa condizione e oltre uno su quattro, e parliamo sempre del mezzogiorno, vive in grave disagio economico. Questo il quadro secondo l'Istat, che aggiunge che l'indicatore cresce di 1,7 punti rispetto al 2011 ed è di 5,1 punti percentuali più elevato rispetto a quello medio europeo. Sentiamo cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo con Mario Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Problemi in tutte le città per lo sciopero del trasporto pubblico locale. A Milano anche un corteo degli studenti con un blitz al Pirellone e qualche tensione. Lo sciopero è già finito in gran parte delle città tranne che a Torino, dove durerà per tutto il giorno. Alla Camera dei Deputati siamo al rush finale per la legge di stabilità, ci sono polemiche sulla web tax. Protezione al massimo livello per 4 magistrati impegnati in inchieste sulla mafia, ha riferito il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Calcio, negli ottavi di Champions League il Milan incontrerà l'Atletico Madrid. È il momento di Mario Platero e di America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da Milano, Mario Platero. Sono ancora in Italia, rientro negli Stati Uniti questa sera, ma devo dire mi ha colpito molto nel dibattito economico quella che è una polemica che è in corso anche negli Stati Uniti e che ho visto poi riprodotta qui, e cioè il ruolo della Germania è un freno per quelle che sono le possibilità di crescita degli altri paesi che fanno parte dell'euro e dell'Italia in particolare, oppure un punto di riferimento solido, stabile? E devo dire, avevamo dibattuto una decina di giorni fa a Washington proprio su questo argomento con Fred Bergsten, con Lorenzo Binismaghi. Ho visto la settimana scorsa anche un articolo di Sylvie Goulard, la quale dice, ma perché non ha senso dare a Berlino ogni colpa? Un articolo sul Corriere. Proprio con Sylvie Goulard cominciamo questa nostra discussione. La Germania è colpevole o innocente? Buongiorno Sylvie. Buongiorno. Dunque, Mario. Buongiorno Silvia. Dunque, lei è eurodeputato intanto, quindi ha una visione europea alquanto, come dire, globale. Sì, sono membro della Commissione degli Affari Economici. Ecco, quindi perfetto. Allora, colpevole o innocente, la Germania, lei la risposta l'ha già data, perché sul Corriere il titolo era dell'altra settimana, venerdì, perché non ha senso dare a Berlino ogni colpa. Dunque lei è innocentista, la Germania è innocente, non è un freno per le altre economie europee come sostiene il Dipartimento del Tesoro americano? No, dobbiamo smetterla con giudizi morali, no? Non è una questione di colpa o di innocenza, dobbiamo vedere come può funzionare una zona economica e monetaria integrata. Da questo punto di vista io ho detto che dobbiamo fare tutti sforzi, nel mio articolo ho sottolineato le debolezze della Germania, ci sono delle cose da fare in Germania e ci sono delle cose da fare in Italia o in Francia. Se noi facciamo tutti gli sforzi necessari, l'euro non ha futuro e non dobbiamo darci la colpa. E in Germania io chiedo anche ai tedeschi di fare i compiti loro. La cosa che mi colpisce sempre è di avere italiani o francesi che fanno la battaglia in Italia o in Francia non vanno in Germania, tedeschi che parlano solo ai tedeschi, questo non è la via giusta. No, no, certo, va negoziato, però Silvi, vediamo un pochettino i dati di fatto. La Germania è l'unico paese che cresce, ha l'occupazione a posto. La risposta dei tedeschi, è stata la risposta del ministro dell'economia al rapporto del tesoro, è: cari miei, noi siamo competitivi perché abbiamo fatto le riforme. La mia risposta a questo è no, voi siete competitivi anche perché avete fatto le riforme, ma soprattutto perché siete in una posizione di vantaggio vis-à-vis le aziende degli altri paesi europei che hanno un differenziale sul tasso di interesse di 200 o 300 se non 400 punti base, quindi da un punto di vista di concorrenza aziendale siete concorrenti perché avete un tasso di cambio con un euro a quota 1,37 che è ben al di sotto di quello che sarebbe il valore reale del Deutschmark se fossimo in regime di Deutschmark, che potrebbe essere a 2,20 o quello che è. E dunque questi sono gli elementi tecnici e non morali su cui, secondo alcuni, e devo dire secondo me, gioca la Germania. È vero fino a un certo punto. Prima di tutto, per esempio, i tassi di interesse sì, sono più bassi, questo è un vantaggio per la Germania, ma se mi ricordo bene la situazione in Germania, le imprese tedesche hanno anche soldi per investire senza andare nelle banche, dunque questo è un piccolo punto tecnico, ma c'è una cosa più importante, per esempio l'educazione, la formazione, su questi punti che fanno anche parte della competitività, non posso giudicare per l'Italia, ma in Francia abbiamo delle difficoltà identificate dall'OCSE che non hanno niente da vedere con la quota dell'euro, dunque io non dico che la Germania non abbia delle cose da fare, dico che anche noi dobbiamo entrare in una logica dove non cerchiamo lo capro espiatore e dobbiamo vedere quali sono le cose che non vanno in Francia o in Italia e quali sono le cose che non vanno in Europa. Io sono stata una delle relatrici e uno dei relatori del Six Pack. Nel Six Pack abbiamo introdotto per la Commissione i poteri di dare un occhio ai macroeconomic imbalances. La Commissione l'ha fatto e ha identificato il livello dei surplus. Su questo io sono pronta a discutere con la Germania e dobbiamo riflettere agli spillover di questo surplus. Dunque abbiamo nuovi strumenti, tocca a noi fare il necessario per avere influenza sulle decisioni in Germania, ma saremo molto più forti se facciamo anche i compiti a casa. Benissimo, però c'è un elemento di fondo. La Germania è ossessionata dall'inflazione. Non vuole fare o incoraggiare in altri paesi politiche fiscali o anche monetarie molto espansive. L'America lo ha fatto, ha ridotto il suo disavanzo pubblico, sta crescendo a un ritmo del 3-6%, 2 milioni di occupati, Stati Uniti d'America. Ecco, se la Germania cedesse da quel punto di vista, forse qualcosa succederebbe. Ma è normale che siano così ossessionati dall'inflazione oggi che l'inflazione non esiste? Ma su questo mi dispiace, la storia è la storia. Le ossessioni ne abbiamo in Allora Silvi ci dà un giudizio morale anche lei, però. Sto parlando di una cosa morale, tecnica. Dico, per esempio, c'è un bellissimo intervista di Benoît Cœuré, membro del direttore del board della BCE sulla Zeit, esattamente su questo punto questa settimana. Non dobbiamo rimanere in Italia o in Francia e dire ma perché i tedeschi sono ossessionati di inflazione? Dobbiamo andare in Germania tenendo conto della storia, tenendo conto dell'aspetto psicologico e cercare di convincerli. È vero che la paura dell'inflazione in questo momento non è giustificata, dunque cerchiamo di fare un ragionamento e non di sbattere i pugni sul tavolo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato in fondo anche di relazioni Stati Uniti, Germania e, per carità, nessuno vuole il confronto, e allora ispiriamoci a un classico, Liza Minnelli, Cabaret, Willkommen, Bienvenue, Welcome. Bye, bye. My liebe Herr, farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine. Da Milano è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. E grazie anche a Mario Platero. Si chiude così questa puntata di Effetto Giorno. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24. Se volete potete seguirci, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia. Noi ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio e poi con Effetto Giorno, che naturalmente torna domani alle 13.